per un prude spietà, verrò per farti guerra, con mille muri al lato, verrò per farti guerra, verrò per un spietà, ma no, che vadi con la gelante. Verrò per un prude spietà, verrò per farti guerra, con mille muri al lato, verrò per un prude spietà, prude spietà, c'era l'Italia, c'era il mondo, verrò crudo e spietato.